Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre e troviamo con noi Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto agli ascoltatori. Gianluca, oggi tocchiamo l'argomento tanto caro a noi italiani, l'automobile, per due aspetti. Il primo è che sono di nuovo rincarati insomma, i combustibili. Dopo due settimane che potremmo definire così di tregua per quanto riguarda il costo della benzina, e adesso si registra un lieve rialzo di un centesimo, come viene monitorato dall'osserva prezzi carburanti del Ministero dello Sviluppo Economico, e quindi insomma diciamo non è una grande notizia per gli automobilisti, anche se per ora sono rincari contenuti. In ogni caso adesso siamo arrivati a pagare la benzina in modalità self per una media di 1,52 euro al litro, e con i diversi marchi che possono variare da 1,51 a 1,54 euro al litro. Per quanto riguarda la benzina. Per quanto riguarda invece il diesel, siamo attorno a 1,36 euro al litro, con una variazione che può andare da 1,36 a 1,38 euro al litro a seconda del distributore. Questi prezzi sono in aumento rispetto a appunto a qualche settimana fa, e chiaramente dipende dal distributore. Sappiamo benissimo che per esempio in linea di massima le pompe bianche fanno risparmiare abbastanza rispetto invece a un distributore con il marchio. Per quanto riguarda invece le spese degli italiani nei confronti delle quattro ruote, in realtà si registra, secondo alcune indagini che sono state pubblicate in questi giorni sui giornali, si registra un aumento della spesa da parte degli italiani, e che nel 2016, quindi in confronto con lo scorso anno rispetto al 2015, hanno speso circa 175 miliardi di euro per le quattro ruote. Però in questa spesa, chiaramente la parte dal leone la fa il carburante con 50,6 miliardi di euro. Però ricordiamoci che il 2016 è stato un anno d'oro per gli automobilisti, perché sì, il carburante costava addirittura attorno a 1,30 euro al litro, la benzina in questo caso, e quindi anche se hanno speso 50,6 miliardi di euro per il carburante, è sempre una cifra in diminuzione di circa il 9% rispetto al 2015. Mentre le voci che fanno crescere la spesa, ma questo è un dato positivo, la prima voce in assoluto è sicuramente quella legata agli acquisti di autoveicoli, quindi alle nuove immatricolazioni, e per i quali sono stati spesi 45 miliardi di euro contro i 37 miliardi del 2015. C'è una ripresa, ne abbiamo già parlato anche durante la tua trasmissione, c'è una ripresa delle immatricolazioni, questo è un dato positivo che però deriva dal fatto che se andiamo un po' indietro negli anni le vendite si erano praticamente dimezzate, quindi adesso stanno semplicemente riprendendo. Tra le voci che incidono sulle spese per l'auto rientra ovviamente le manutenzioni, quindi le riparazioni, che assorbono quasi un quinto della spesa globale, cioè sì, 36,6 miliardi nel 2016 contro il 35,2 del 2015, quindi con un incremento che è di circa il 4%. Al quarto posto invece della spesa troviamo l'esborso per i premi di assicurazione RC auto, incendio e furto. E nel 2016 le famiglie e le imprese hanno pagato alle compagnie di assicurazioni 17,9 miliardi di euro, che è una cifra molto alta, però diciamo che questo è un dato positivo per gli automobilisti, è inferiore del 3,5% rispetto ai 18,6 miliardi spesi nel 2015, sempre dagli italiani. Ecco, abbiamo fatto un po' un elenco, abbiamo dato un po' i numeri, però tutto per dire quanto, Francesco, ovviamente l'auto incida sul bilancio mensile, inutile dirlo, delle famiglie italiane, ecco, continua ad incidere con tutte le sue voci, per cui resta ancora, è sempre una delle spese più importanti, insieme a quelle legate alla casa, per le famiglie. Sì, io aggiungerei, caro Gianluca, anche le spese per i biglietti dell'autostrada, che secondo me sono elevatissimi. Poi vabbè, anche in altre parti del mondo magari l'autostrada costa parecchio, ma in altri posti per esempio non si paga per niente. E poi noi in Veneto abbiamo dei tratti che sono una grazia, proprio perché costano una follia rispetto a tanti altri posti. Sì, e tra l'altro abbiamo anche di questo, ne abbiamo già parlato, cioè del fatto che e con l'anno nuovo si sono aumentati alcuni pedaggi autostradali e anche questo chiaramente non fa piacere agli automobilisti, che soprattutto quelli che viaggiano molto si trovano veramente a spendere troppo probabilmente per dei pedaggi, anche per delle percorrenze non così elevate. Chiaramente sia su questo che sulle assicurazioni che sul carburante ovviamente si potrebbe giocare per risparmiare, nel senso che chi ci governa potrebbe insomma aiutarci a risparmiare, per esempio sui pedaggi sicuramente, ma soprattutto in questo caso le società private che gestiscono le autostrade. Però per esempio sul carburante noi sappiamo benissimo che gran parte della spesa può essere, certo, può essere attribuita ad accise incredibili, e alcune delle quali sicuramente adesso potrebbero anche essere tolte. Sicuramente l'automobilista comunque subisce ogni anno delle belle stangate a livello economico, quindi insomma ci auguriamo che si guardi anche a questa categoria con una certa attenzione. Invece spesso diventa una categoria per far cassetto, vedi multe su tratti molto discutibili con auto velox che magari non servirebbero proprio in quel posto, ma magari in altri posti sarebbero più utili. Va bene, chiudiamo qui il discorso perché potremmo andare avanti una mezz'ora tranquillamente. Grazie a Gianluca Codognato, grazie all'Adico. Ricordo il sito www.associazionedifesaconsumatori.it. Ci sentiamo lunedì prossimo. Grazie Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.